Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Italiani! No, ecco, Nicole! Perché metti il gloss? Un po' di gloss, superstar, Dai! Italiani! Precossi è il figliolo di un fabbro che beve e sovente maltratta la famiglia. Precossi, ti do la medaglia. Non solo per la tua intelligenza, ma per il tuo cuore. Italiani! Fiorito va al contrattacco preparando il suo dossier. Parla di cene a base di ostriche nel ristorante Ottavio a Roma. Di pranzi da Pasqualino al Colosseo. Di aperitivi in via Bodoni. Italiani! Marcello! Come here! Hurry up! Sì, Silvia. Vengo anch'io. Stiamo sbagliando tutti. Ecco, basterebbe questo incipit sarebbe sufficiente a sottolineare, delimitare, circoscrivere il nostro essere italiani. Ma è una gabbia alla quale noi facciamo di tutto per sfuggire, vogliamo sfuggire lontani, vogliamo mostrarci cosmopoliti, siamo i più grandi consumatori di tablet del mondo, nessuno ha tanti telefonini quanto noi, nessuno è così assiduo e promiscuo nell'avere amicizie su Facebook, eppure noi italiani siamo sempre questo, sempre unicamente, radicalmente questo. Ma non è che lo siamo per quanto possa spaziare la nostra memoria biologica individuale, lo siamo sempre stati, sempre ci hanno visto per quello che siamo, sempre siamo stati questi, dalla notte dei tempi, da quando i viaggiatori romani venivano alla scoperta di questo paese dei limoni, vedono sempre le stesse cose che vediamo adesso oggi noi. Sfogliamo i giornali e vediamo cosa: ancelle discinte, templi dell'antica Grecia, e giovanotti robusti che bevono champagne a deleggiare, una grande pantomima, una grande rappresentazione del mondo classico. Era una festa, una festicciola austera e sobria, fatta per i figli di un politico dell'amministrazione regionale della regione Lazio, di cui sta molto parlando. Beh, vediamo oggi se riusciamo a capire attraverso quali pregiudizi gloriosi, quali detestabili luoghi comuni, continuiamo a poterci chiamare sempre italiani, sempre immutabili, sempre uguali a se stessi. Corrado Augias, buongiorno. Salute, buongiorno. Corrado Augias questa mattina è in studio con me perché è uscito da poco l'ultimo dei suoi segreti. Corrado Augias ha scritto una serie di libri su vari segreti di varie circostanze, sempre editi per Mondadori. Questo è il primo segreto che esce per Rizzoli: I segreti d'Italia, storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione. Siamo una nazione definibile in un romanzo. Non tutte le nazioni sono definibili in un romanzo, non tutte le nazioni sono così diffusamente poliedriche come l'Italia. Tu dici: se togli Parigi alla Francia non esiste, se togli Londra all'Inghilterra non esiste, togli Roma all'Italia, comunque ce ne sono tante che rimangono. Quindi siamo una raccolta di tanti romanzi, Corrado. Avrei anche potuto usare un'altra parola, melodramma. Non è un caso che questo sia il paese dove già molti secoli fa è stato inventato il melodramma, ovvero la commedia in musica o la tragedia in musica, e dove peraltro non è mai stata scritta una tragedia, a parte il volenteroso Seneca e l'altrettanto volenteroso Alfieri. Quindi questo già la dice lunga su quali sono le nostre inclinazioni profonde e, come lei ha detto giustamente, immutabili, purtroppo. Beh, parla di melodramma, Augias, la fantastica arringa del presidente della regione Lazio, Renata Polverini, l'altro giorno, era la sintesi. Non voglio entrare in merito a una lettura politica, non mi interessa questa mattina. Analizzo gli italiani come analizzerebbe un viaggiatore che li vede per la prima volta. Un fantastico melodramma. I tumori estirpati dalla sua gola, equiparati ai tumori, saranno estirpati dalla sua compagine politica. Ecco, non ci riusciremo mai a liberare, nemmeno nei momenti estremi, nei momenti difficili, a questa nostra fantastica capacità di vivere nel melodramma. Guardi, Nicoletti, il libro che lei ha citato, I segreti d'Italia, è un tentativo, raccontando alcune città italiane, da Palermo su fino a Venezia, è il tentativo di capire perché noi siamo diventati quello che siamo e che lei sta così efficacemente descrivendo. Quali cause, quali ragioni storiche, geografiche, confessionali, politiche, civili hanno determinato la formazione di un carattere nazionale? Perché mi sono posto questa domanda? Perché mi incuriosì tempo fa, parecchio tempo fa per la verità, una risposta che dette Benedetto Croce a chi gli chiedeva che cos'è il carattere di un popolo, e lui disse: il carattere di un popolo è la sua storia. Ecco, allora ho pensato che raccontando la storia di alcuni luoghi notevoli della penisola si potesse riuscire a delineare il carattere degli italiani. Gli italiani, gli italiani sono sempre... Io ho davanti a me il suo libro, dal quale attingo suggestioni per trarre spunti di riflessione, e invito anche gli ascoltatori a farlo chiamando all'800 24 0024. Vi daremo alcuni segnali di quella che è stata l'indagine di Corrado Augias, indagine della letteratura, nella storia patria, nelle cronache. E quanto vi ritrovate poi in questi caratteri? E soprattutto, ha detto Augias, siamo il frutto della nostra storia. Quando secondo voi comincia la nostra storia? Qual è il punto zero in cui noi italiani siamo cominciati ad essere quello che siamo? Ma senza piangerci addosso, senza fare del vittimismo. Io amo con tutti i miei limiti, con tutte le mie sopravvalutazioni, essere quello che sono. E questo forse fa parte del mio essere italiano. Tutti i viaggiatori, sin appunto dal periodo in cui l'Italia era definita, cominciata ad essere definita come un paese, ci hanno sempre definito un popolo di artisti, di persone impulsive, di persone appassionate. Aveva due facce la bellezza: da una parte l'Italia, da una parte il paese della bellezza, e dall'altra parte questo fatto che gli italiani sì, siano persone geniali, ma questa loro genialità portata alla punta estrema diventa inaffidabile, corrotta, licenziosa, come appunto diceva qualcuno parlando di noi molto tempo fa. Questo giudizio che lei ha citato, la ringrazio, disegna una nostra fisionomia che ci rende... Io ho vissuto e vivo una buona parte del mio tempo all'estero, che ci rende ambigui, in qualche caso antipatici. Perché dico questo? Perché vede, per dare un giudizio complessivo su di noi non è facile. Chi siamo noi? Siamo il paese del sottosviluppo, delle mafie, delle infrastrutture che non funzionano, di una burocrazia spaventosa? Oppure siamo il paese dell'eccellenza, del design, del cibo, del vino, della Ferrari, insomma, e tutto quello che sappiamo? La verità è che siamo tutte e due le cose insieme, ed è questo che ci rende poco decifrabili e dunque, in definitiva, come tutte le cose che non si riescono a capire, un po' antipatici. Un altro punto che ci tengo, su cui tengo a riflettere con Augias, è questo altro aspetto, che al di là è una vecchia storia: gli italiani brava gente, gli italiani sono buoni, stessa faccia, stessa razza. Una nostra invece accezione di estrema ferocia, di estrema cattiveria, di estrema spietatezza. Siamo anche capaci, oltre a essere tutto cuore, figli, sto cavalcando, nota Augias, i più radicati e profondi luoghi comuni, però anche la nostra ferocia, la nostra spietatezza, il nostro essere capaci delle più sconsiderati e folli atti di generosità, di sconsiderato altruismo, di folle eroismo, ma allo stesso tempo di essere spietati. Soprattutto questo vediamo, non vorrei mettere sempre il dito nella piaga, in certi aspetti le nostre classi politiche in fondo ci rappresentano tanto. Quando ci guardano da fuori dicono: ma com'è possibile che siate così mal rappresentati? Ma non voglio fare esempi limitati a certi periodi, perché dovunque andiamo a mettere le mani le mettiamo bene in questo caso. Ma dipende, sa, perché guardi, De Gasperi, nonostante si presentasse nelle prime riunioni internazionali dopo la guerra capo del governo di un paese vinto e distrutto, era circondato da una grande considerazione. Oggi Monti, noi lo possiamo criticare quanto vogliamo, ma per quanto riguarda la nostra immagine all'estero, me lo faccia dire con competenza quotidiana e sperimentata da me, oggi Monti è riuscito a raddrizzare un'immagine del paese che negli ultimi anni era diventata catastrofica. E però quanto ci rappresenta rispetto al modello che noi stiamo definendo oggi? Io non lo so, guardi, dico un'altra cosa, che l'immagine catastrofica non è soltanto un vezzo da anime belle che dicono oh come eravamo ridotti male, l'immagine catastrofica significa anche, si riflette anche su quel famoso spread, cioè sul famoso differenziale tra quanto si pagano i nostri titoli di Stato e quanto si pagano quelli degli altri paesi. L'immagine catastrofica nella quale eravamo precipitati e dalla quale Monti ci ha tirato fuori ha un prezzo, costa cara l'immagine catastrofica. In una radio che si chiama Radio 24, questa particolarità va sottolineata. Sentiamo l'ascoltatore Giampaolo. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho telefonato perché ne ho abbastanza di sentire parlare della creatività e della genialità degli italiani. Vivo intensamente la vita internazionale perché sono un imprenditore che è spessissimo all'estero, quando dico all'estero dico Giappone, Australia. Di cosa si occupa Giampaolo esattamente? Così definiamo meglio il suo ruolo. Il fatto che ci definiamo... No, dicevo, di cosa si occupa lei Giampaolo? Scusi. Sono un imprenditore, sono un imprenditore di industria elettromeccanica che esporta... Settore elettromeccanico, sì. Fatturato. Sono un ingegnere. Quando sono all'estero... mi capita di confrontarmi, sento tutto il disprezzo che la gente ha nei nostri confronti, per la nostra pochezza della logica, l'incapacità di critica, l'incapacità di risolvere problemi, abbiamo bel dire che siamo forti della moda, nel cibo, eccetera, ma questo non dà da vivere a una nazione, sono ben altre le cose, sono la capacità di individuare i problemi, la capacità di risolverli, la tenacia e il coraggio. Ora, anche se io non mi sento italiano, perché per fortuna nato da madre semi-austriaca, e continuo a dirlo, non ho nessun avvezzo di sentirmi italiano, dico che questa gente, questa gente che saremmo noi che siamo tutti... Gli italiani. Noi senza mamma austriaca saremmo questa gente. Nel Veneto del Nord, nel Friuli, eccetera, c'è della gente che non si riconosce affatto. Ma lei è cittadino italiano o è cittadino austriaco? Sono cittadino italiano. Quindi è italiano. Dopo l'unificazione. Dico che questa gente non si rende conto di quanto siamo considerati ignoranti, e lo siamo. Gente che non conosce neanche la propria storia, perché noi facciamo delle figure barbine in giro, non conosciamo la nostra storia, la storia degli italiani, voglio dire. Siamo gente che quando si trova di fronte a dei problemi trova la soluzione facile e furbesca, non ha nessun... Guardi soltanto il discorso dei brevetti, no? Stati Uniti, Giappone, Russia, Cina, eccetera, eccetera, e i brevetti che si fanno in Italia. Non c'è confronto. Non esiste confronto, la scala è completamente diversa. Sono allora, fermiamoci un attimo Giampaolo, sennò facciamo un comizio con Giampaolo. Giampaolo, lei è stato fantastico come intervento in questa trasmissione perché dimostra esattamente uno degli aspetti degli italiani. Quello di parlarsi male addosso, di sputare sul piatto in cui si mangia, di cui dire siamo tutti uno schifo, di fare le differenze. Basta una madre austriaca che lei non si sente più italiano. Corrado Augias. No, ha ragione Nicoletti, mi viene in mente la frase di Carlo Emilio Gadda che diceva noi siamo afflitti, testuale, dalla porca rogna dell'autodenigrazione. Che è un bello sport, è divertente. È divertente, sputarsi addosso è divertente, però vorrei ricordare al signor Giampaolo che l'altro giorno stavo in Emilia e parlavo con un signore che mi diceva, e gli chiedevo, è un imprenditore come Giampaolo, gli dicevo che cosa fa? Dice, ma io faccio martinetti idraulici, e finiva lì. Poi dopo, quando questo signore è andato via, ho detto, ah, quel signore fa martinetti idraulici, sa che mi hanno detto? Mi hanno detto, quel signore ha fatto i martinetti idraulici che tengono in equilibrio l'aeroporto di Osaka in Giappone, disegnato, progettato da Renzo Piano. Ha capito che tipo di martinetti idraulici. Quindi esattamente l'antitesi dell'ascoltatore che ha parlato. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Anche lei ce l'ha con gli italiani? No, io voglio tirarmi fuori dagli italiani ladri. Vabbè, questo mi sembra logico. Ecco, se si tirasse dentro dovrebbe risponderne agli inquirenti. Non siamo tutti uguali, non mi riconosco sull'italiana ladra. Volevo puntualizzare questo. Io vorrei che qualcuno si arrabbiasse di brutto provasse anche a fare qualcosa di serio, ma umanamente parlando, che provassero paura di avere che gli succeda qualcosa a questi nostri politici. Vabbè, adesso... vorrei proprio che qualcuno lo facesse, perché non ne possiamo più. Visto che le scappano sempre, le scappatoie ci sono, vorrei che pagassero di persona, ma che qualcuno li facesse male davvero. La vendetta è sempre una brutta cosa, il dente per dente, occhio per occhio, ma i politici non è che vengono in un'astronave, sono degli UFO. Qualcuno l'ha messi lì perché qualcuno ha dato il loro consenso perché ci fossero. Corrado Augias, altro punto di vista. Gli italiani prendono sempre le distanze dalla classe politica che loro hanno espresso. La classe politica, purtroppo, come diceva Winston Churchill, i parlamenti del mondo, in ogni parlamento c'è il 20% del meglio del paese, il 20% del peggio del paese, l'80%, 20, 40, il 60% è come il paese. La classe politica che ci rappresenta è in gran parte uguale a noi, perché se no è inutile che la signora Lucia se la prenda con la classe politica. Scelga meglio i suoi rappresentanti, se la legge elettorale, questa è l'obiezione, ci permetterà di farlo. La pressione sulla classe politica in molti casi è servita, per esempio quando sono stati approvati quei 3 referendum un anno fa, che i politici assolutamente non ne volevano parlare. L'ascoltatore Gianluca. Gianluca. Salve Nicoletti, io volevo condividere con voi un pensiero, la straordinaria capacità degli italiani di autoassolversi in ogni circostanza, sia di fronte a fatti grandi della storia che fatti piccoli, come per esempio quando fu per le leggi razziali sugli ebrei, perfino i testi scolastici ne parlarono con molto ritardo e tutto sommato marcando molto la mano sul fatto che l'alleato ci costringeva, e quindi insomma come se la nostra responsabilità fosse sempre minore e che in fin dei conti noi non abbiamo poi così tante cose. Allora, un attimo solo, Gianluca, non la voglio interrompere. Corrado Augias nel suo libro c'è proprio un capitolo, ma anche in vari riferimenti, che parla proprio della presenza degli ebrei nelle nostre città, l'invenzione del ghetto. Salto, arrivo verso la fine. Questa sorta di, diciamolo, perché stiamo facendo tutte le valutazioni, di questo ripensamento, siamo stati così capaci? Questo va sempre sull'onda lunga del discorso che facciamo sulla crudeltà. Abbiamo in noi questo forte senso di discriminazione, oppure passa l'idea nei confronti dei diversi, degli stranieri, di quelli che non sono proprio esattamente come noi? Sembra che l'italiano ci abbia un gran cuore, c'ha cuore per tutti. Poi a vedere nello specifico, in realtà sa abbastanza carogne anche da questo punto di vista. Ma le reazioni, le leggi del 38, che sono un'infamia, una delle 2 o 3 più gravi infamie del fascismo, glielo dico io che ho un ramo della mia famiglia ebraica, furono dagli italiani non furono prese troppo sul serio. Diventarono tragiche quando poi, dopo l'8 settembre del 43, arrivarono i tedeschi, che ne chiesero un'applicazione feroce, come avevano fatto anche in altri paesi europei. Io la relegherei tra le volenterose infamie di cui si macchiò Benito Mussolini. Diverso invece il preteso senso di benevolenza che gli italiani hanno. Guardi che le reazioni che si vedono spesso nei confronti degli stranieri che arrivano adesso, che sono sgradevoli, affrontiamo le cose come sono sgradevoli, puzzano, non si lavano abbastanza, hanno i piedi sporchi, qualche volta rubano, ci sono dei gruppi che vivono di furto. Ma sono le stesse cose che facevamo noi quando abbiamo cominciato ad emigrare negli Stati Uniti. Gian Antonio Stella ha scritto un libro su questo, io pure nel libro su New York ho dedicato un vasto capitolo a questo. Noi eravamo visti a New York esattamente come oggi si vedono i magrebini o gli zingari, quindi queste cose vanno affrontate, certo, dobbiamo metterci in sicurezza, ma bisogna anche guardarle con l'occhio colloquio storico, per così dire. Lei cita un antropologo americano, Robert Torsi, che parlando degli italiani rimane impressionato che in una festa religiosa, la festa della Madonna del Carmine, il 16 luglio, trascinavano le donne fino all'altare facendo loro leccare il pavimento con la lingua. Questa... una pratica giurata rivoltante anche da altri cattolici. Sì, gli altri cattolici erano gli irlandesi, che a New York allora c'erano due grandi comunità cattoliche, una italiana e una irlandese. Gli irlandesi erano scandalizzati dalle usanze pagane praticamente degli italiani, erano soprattutto meridionali e veneti. Degli italiani, perché si ritenevano giustamente svergognati da queste pratiche davanti alla predominante società anglosassone protestante. Però questa componente molto legata ad aspetti, diciamo molto folcloristici anche della pratica religiosa, ci segna tuttora. Abbiamo intere radio dedicate ai culti mariani, rispettabilissime. Abbiamo l'impossibilità di avere una visione laica dell'esistenza. Cade giusto questo suo discorso oggi, il 19 settembre, domani è il 20 settembre, che segna il ricongiungimento dell'Italia al resto del regno nel 1870. E il povero Cavour si è dannato l'anima cercando di affermare il suo limpido principio, semplice apparentemente, libera Chiesa e libero Stato. Non è stato possibile. Ancora oggi noi siamo legati da due vincolantissimi concordati, che, attenzione, il concordato è un tipo di trattato internazionale asimmetrico in cui praticamente si impegna una parte sola, come rilevò tra i primi Antonio Gramsci. Due concordati, uno del 29 e uno dell'84, che quella formula cavurriana così semplice, giusta, laica, come dice, laica nel senso giusto, rimpediscono di applicare. Laico non vuol dire antireligioso, vuol dire semplicemente una persona con una visione laica dell'esistenza, che ammette tutte le possibilità di visioni trascendentali, metafisiche, ma vorrebbe che perlomeno che gli affari che riguardano i rapporti fra gli uomini fossero... Vorrei dire una cosa, sì, a complemento di quello che lei ha detto. Roma, quella là, era laica. Nel senso che i culti erano ammessi, ognuno praticava tranquillamente il suo, nessuno pretendeva che il suo culto fosse l'unico vero e che gli altri andavano perciò banditi, proscritti o bruciati sul rogo. E quando, fino a che è durato questo regime detto del paganesimo, non ci sono mai state le guerre di religione, che sono cominciate soltanto con i monoteismi. Erano le 9:12 minuti quando il cardinale Sepe ha annunciato che il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro si è compiuto. Prendendo la teca con le reliquie del santo, Sepe ha detto «Viva San Gennaro!». I fedeli assiepati nella cattedrale di Napoli, sin dalle prime ore del mattino, hanno salutato il prodigio con un lungo applauso. 800 24 00 24, siamo in studio con Corrado Augias, autore dei Segreti d'Italia di Torrizzoli, storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione. Dai Segreti d'Italia, che ha individuato, e studiato, approfondito Corrado Augias, arriviamo all'immagine che abbiamo oggi del paese, che è quella che un po' viene fuori dalle telefonate dei nostri ascoltatori, divisi sempre in maniera manichea, fra quelli che si autoflagellano, si sputano addosso, noi italiani facciamo schifo, e non sono italiani loro perché prendono le distanze, o sono di una regione, o sono di un'altra, sono di un'etnia, o di questi nuovi agglomerati fantasiosi, fantamitologici che oggi ogni tanto riemergono, o appunto quelli che dicono ma in fondo noi siamo da salvare, abbiamo la genialità, abbiamo l'arte, abbiamo il più grande patrimonio artistico dell'universo. Velocemente sentiamo due ascoltatori, poi farò intervenire Augias su questa idea che San Gennaro, la liquefazione del sangue del santo, ancora rappresenti un evento nazionale. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Caserta, sono un ufficiale dell'esercito, quindi ho avuto l'opportunità più di una volta di andare all'estero e volevo dare la mia testimonianza, in quanto poi comunque l'immagine degli italiani non è così negativa, almeno secondo la mia esperienza personale, perché quello che ho potuto verificare personalmente e soprattutto il fatto che viene apprezzata la nostra istintività, la nostra capacità anche di stemperare determinate situazioni, la nostra umanità, la nostra capacità anche di comprendere le difficoltà altrui. Magari questo non ci riesce molto bene in patria, però all'estero. Ma lei è andato in missione? È andato in missione all'estero come militare oppure in viaggio così di piacere personale? Mi perdoni, non. No, ho detto è andato in missione. Non ho capito. No, lei è andato in missione. Queste impressioni le ha avute professionalmente operando o semplicemente come turista? Non arriva. Beh, pazienza, saltiamo. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Imprenditore, un altro imprenditore. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo salutare il dottor Augias, che è sempre un piacere sentirlo per la sua lucidità e per la sua sintesi. Vengo al mio discorso. Io sono un figlio della terra veneta e ho 20 zii che sono, per 18 sono tutti all'estero, e quindi i miei cugini tra l'Australia, Svizzera, Germania, Inghilterra, sono in Canada, sono sempre in contatto per vedere la differenza che c'è fra l'Italia e gli altri, gli italiani e le altre nazionalità del mondo. A prescindere che dei luoghi comuni, l'Italia sappiamo che è complicata, abbiamo il cucus che si mangia in Sicilia, i canederli che li mangiamo qui in l'Alto Adige, e allora è sempre difficile mettere assieme queste anime, però io volevo dire, da qualche parte dovremmo pur iniziare, da questa crisi dovremmo venirne fuori in qualche modo, partendo soprattutto dalle piccole cose, che piccole cose che poi sono importanti, la scuola, la moralità, e riuscire ad emergere in quelle che sono i nostri talenti. Quindi lei singolarmente, Marco, un veneto che non impugna la diversità dei veneti. Io giorni fa ho fatto una trasmissione su i separatismi, i veneti, noi siamo i veneti e quindi non abbiamo niente a che fare con il resto del mondo, lavoriamo per i veneti. Lei è un veneto, però è un italiano. Sì, per l'amor di Dio, ma sono anche europeo, ma sono anche un cittadino del mondo, e quindi voglio dire, mi viene in mente la poesia di Pasolini che spiega quando i nordafricani saliranno e verranno su verso il nord, e ancora scritta 40 anni fa e anticipato tutti. Bisogna capire che il mondo sta cambiando, e se io faccio magliette le devo vendere a chiunque e devo approfittare, devo governare questi cambiamenti, non li posso rifiutare. Purtroppo la lungimiranza dei nostri politici negli ultimi 20 anni ci hanno drogato, ci hanno messo gli occhiali scuri, non riusciamo a vedere. E anche lei, però, anche lei fa il distinguo, Marco, fra quello che è la sensazione di essere cittadino con le sue integrità e con i suoi limiti e la sensazione di avere una classe politica che non ci esprime, che non ci rappresenta, che è come se fossero arrivati, ho detto, da un'astronave. Corrado Augias, ora torniamo ai Segreti d'Italia. Una parte dei Segreti d'Italia precipua e interessante è dedicata al libro cuore, a Edmondo De Amicis, figura sulla quale in questa missione ho molto parlato, che però è in netto contrasto con la nostra notizia di apertura. Il sangue di San Gennaro si è sciolto, siamo tutti contenti, ma anche le autorità civili, non soltanto le autorità religiose, danno una partecipazione, un consenso, un plauso a questa azione. Ma ritorniamo alla domanda di prima: perché non riusciamo a essere sinceramente, sanamente, apertamente, modernamente laici? Ma qui non è, secondo me, neanche un problema di laicità, qui è che la religione, il cattolicesimo italiano, a differenza di tanti altri cattolicesimi più sobri, per esempio quelli che restano nel nord Europa, lo stesso cattolicesimo francese, del resto c'è la Francia, la fine dell'Église, si dice, è diverso dagli altri. Il nostro cattolicesimo è fortemente intriso di quelli che erano i riti che c'erano prima che il cattolicesimo si affermasse. Non c'è nessun dubbio che il sangue di San Gennaro è un rito di marca tribale che viene perpetuato al confine con la superstizione, così come certi aspetti del culto di Padre Pio, come la venerazione del cadavere, sono tra l'altro un cadavere rivestito di plastica, ma col volto rivestito di plastica, ma insomma sono una maschera di silicone. Una maschera di silicone. Come una soubrette. Peggio, no? Come un, mi duole dirlo, ma insomma come una statua, ecco. E invece era una salma vera, imbalsamata. Voglio dire, questi Beh, sai, pochi giorni fa c'è stato il dramma del sangue di Papa Wojtyła, che era stato rubato e poi ritrovato. Sì, appunto. Ancora pezzi di santo girano notevolmente per il nostro paese. Beh, c'è uscito qualche mese fa un libro sulle reliquie, dove tra l'altro si racconta che ci sono in giro nel mondo 7 prepuzzi di Gesù, cioè la parte del glande scissa con la circoncisione. Ma voglio dire, la sintesi è questa: questi sono residui di un paganesimo, chiamiamolo così per capirci, che la religione cattolica ha fatto suoi, perché la religione è una religione duttile che in Sud America magari assume certe forme del sincretismo religioso di quelle regioni e qui assume San Gennaro. Ma io però, sai, per chi ha una fede religiosa, per chi segue comunque i dettami di un'istituzione religiosa, sono fatti loro. Il fatto è quanto questo incida poi nelle leggi, nelle normative. Spesso abbiamo parlato del matrimonio, abbiamo ancora il matrimonio legato a una condizione sacrale, l'unione fra uomo e donna, ma dovrebbe essere un normale rapporto regolato da dei patti ben chiari. Ci sarebbe molta meno sofferenza e molti meno problemi. Guardi, io... tiriamo su questo problema che lei giustamente indica a livello storico. Una delle ragioni per le quali questo paese si è unificato così tardi e anche non tanto bene è stata proprio la presenza di in tutta la parte centrale della penisola, già di per sé fatta così male, lunga, stretta, dei territori della Chiesa. Come diceva, i territori della Chiesa andavano da Gaeta, confine col Regno delle Due Sicilie, fino a nord, al confine con la Repubblica di Venezia, elevato il morso, levato il Granducato di Toscana. Ora, questa cosa, come già faceva notare Machiavelli, e ne parlo nel libro I Segreti d'Italia, era una presenza che ha impedito che il resto del paese si unificasse, senza peraltro che il Papa regnante avesse lui la forza di fare lui l'unificazione. Non so se cito a memoria, ma insomma il senso... È chiaro, ma come vede ancora ci sono perplessità, timori, pregiudizi, anche per un'equità fiscale su quelli che sono i beni, pochi residui, quanto vogliamo, della Chiesa, che sembra che sia tanto difficile far pagare le lecite tasse come le paga qualsiasi cittadino. Sì, quello è d'altra parte la Chiesa nelle sue articolazioni, in questo caso parliamo della Conferenza Episcopale Italiana, a livello più alto potremmo parlare dello Stato della Città del Vaticano, che ricordo è uno Stato sovrano, è un'organizzazione che abita in Italia, per così dire, ma ha una dimensione planetaria. Si può immaginare i costi che ha. Ha bisogno di una banca, e nella banca ha bisogno di fare le manovre disinvolte, chiamiamole così, che fanno tutte le banche. Ha una inesauribile esigenza di avere denaro per sostenere il personale, le opere, anche le opere di beneficenza che in parte fa, ma soprattutto anche le opere politiche, la stessa campagna per l'8 per 1000, eccetera. Insomma, sono situazioni storiche, per questo dicevo i segreti d'Italia, perché bisogna capire, ripassarsi nella testa in che modo questa strana penisola si è formata. La nostra storia è unica rispetto a tutti gli altri paesi europei. 800 24 0024, rispondo a qualche sms che arriva. State facendo una trasmissione di propaganda anticlericale. Voglio dire che il libro di Corrado Augias, I Segreti d'Italia, di cui stiamo parlando questa mattina, ha ampie parti di profonda, interessata e dettagliata descrizione di quelli che sono i luoghi dove maggiormente si sviluppò lo spirito irenico, lo spirito francescano, lo spirito religioso. Qua nessuno ce l'ha con nessuno, semplicemente il punto di vista laico è un punto di vista che dà il massimo rispetto e la massima considerazione ad ogni istituzione, ma vorrebbe che ciò fosse staccato da quelle che sono le regole della vita civile. Corrado Augias, no, ti dicono che sei anticlericale. No, ma per carità, sei anticlericale, che stupidaggine. Io sono rispettosissimo, anzi dirò di più, ove mai l'esercizio della religiosità cattolica o qualunque altra religiosità venisse ostacolato in qualche modo, io mi batterei personalmente perché fosse restaurata la più ampia facoltà di farlo. In questo libro io dedico un capitolo ampio a Francesco d'Assisi, del quale esalto, ho tolto i lupacchiotti ammansiti, gli uccellini eccetera, e metto in sottolineo l'eroica, drammatica figura di quest'uomo straordinario che ha cercato di ripristinare e incarnare il Vangelo. Per favore, non mi fate adirare, non confondiamo i riti paganeggianti con la vera spiritualità, che è un'altra cosa. Però vedi, questo fa parte proprio dello spirito nazionale, di avere capacità, non avere capacità di scindere, capire, qualora una rappresentazione esteriore, superficiale, strumentale, di buona pratica, di riconoscimento, di inginocchiamento veloce, di bacio dell'anello, non abbia nulla a che fare in realtà con un profondo e attento e intellettuale rispetto per quelle che sono le convinzioni religiose, le visioni della vita, qualunque va bene. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, si sta parlando di italiani e secondo me si sta... I segreti d'Italia che sono alla base del nostro essere, anche contraddittorio. Perfetto. E non si parla di quella mancanza totale più assurda della nazione Italia, cioè un sano, giusto, fiero nazionalismo che nulla ha a che fare con la nazione o patriottismo, parola del tutto scomparsa dal vocabolario da 50 anni. E secondo anni. Lei perché non c'è? Da cosa dipende? Ma io posso esprimere la mia opinione, quella che il nazionalismo fascista, che comunque era un nazionalismo, ha causato questo antinazionalismo del dopoguerra che ha avuto due sviluppi che hanno affossato definitivamente una sana percezione della nazione italiana. Uno, sono d'accordissimo col dottor Augias, abbiamo questo ecumenismo cattolico che a tutto pensa tranne che alla nazione, nel senso che il prete italiano dipende da uno stato estero, nel senso, io non voglio essere anticattolico, ma comunque condivido in pieno l'analisi di questo spirito ecumenista che è antinazionale da sempre. Ecumenista forse non è proprio la parola giusta, vuole dire un'altra cosa, comunque andiamo avanti. Beh, sì. Ecco. Da una parte, dall'altra c'è stato l'internazionalismo comunista che faceva capo a Mosca e che il comunista italiano era prima un militante sovietico, adesso voi siete più acculturati di me, quindi cerco solo di farvi capire che io ho vissuto molto all'estero, ho viaggiato eccetera, io ho visto paesi in cui nelle scuole prima di entrare in classe c'è l'alzabandiera, si suona l'inno nazionale, cioè si sente quell'appartenenza nazionale, non si chiama la propria nazione il paese, cioè la cosa che mi fa veramente più specie qui in Italia è che quando si parla d'Italia si parla del paese e mai della nazione. La nazione italiana esiste dai tempi di Giulio Cesare, il nostro patrimonio storico risale a Roma, dobbiamo esaltarla questa cosa qui in una maniera sana. Posso capire certe rivendicazioni ebraiche contro il nazionalismo fascista, ma questo non vuol dire che il nazionalismo debba essere demonizzato come è stato fatto negli ultimi 60 anni. Insomma. Lei di quello che ha detto ci sono delle cose sagge, fra cui anche il fatto che molte volte abbiamo avuto dei periodi storici in cui dire il nazionalismo viene considerato un retaggio appartenente a una visione dittatoriale dell'esistenza. Corrado Augias, perché mi stanno scrivendo, porti comunisti in trasmissione, orrendo comunista, parla delle stragi del comunismo, da sempre, ogni volta avere il bilancino. Sì, comunque andiamo avanti. No, lo dico perché mi piace citare la reazione più violenta. Sì, no, la reazione bisognerebbe, ormai i tempi vogliono dei giudizi meno tagliati con l'accetta, è il caso di dire, bisognerebbe cercare di essere un po' più sfumati nel giudizio, cercare di capire quello che sta dicendo l'altro. Per esempio il signor Enzo che ha appena parlato ha detto, anche con qualche approssimazione lessicale magari, ma ha detto delle cose sostanzialmente giuste. Io non sono convinto che sia così. Noi durante l'anno scorso, quando c'è stato il 150esimo dell'unità, molti italiani, vorrei dire la maggioranza degli italiani, hanno aderito con sincero entusiasmo alle tante manifestazioni, anzi in maniera sorprendente hanno aderito. Questo non è il nazionalismo, è quello che si chiamava nell'Ottocento amor di patria e che oggi potrebbe anche essere detto senso dello Stato, e che io, per esempio, personalmente, come credo Nicoletti, sento profondamente, se non altro per questo, perché sto parlando una lingua e chi ci ascolta capisce questa lingua, che è la nostra lingua madre. E anche se ci limitassimo a questo, alla lingua, che non a caso si chiama lingua madre, questo ci fa italiani per la vita. Io vivo all'estero, come tanti signori che hanno chiamato, una parte dell'anno. Parlo decentemente la lingua del luogo, ma la lingua nella quale sono stato cresciuto ed educato è un pezzo del mio essere, è un pezzo della mia madre, è un pezzo della mia patria. Letizia, velocemente lascio a lei, come ultima ascoltatrice in onda, la conclusione. Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo parlare sono pedagogista, mi occupo di educazione. Avevo citato prima De Amicis, poi siamo presi da altre vicende, ma era un passo fondamentale quello del libro dei segreti d'Italia di Augias. Esatto, e volevo parlare della responsabilità che ciascuno di noi come persona ha nello Stato, per cui prendendomi io personalmente una piccola responsabilità nella crescita dei miei figli, ad esempio, ma anche nel vivere comune. Non mi piace sentir sempre dare la colpa ad altri della nostra mala Italia, premesso che io non penso che sia una mala Italia, che la amo profondamente e voglio trasmettere ai miei figli, alle persone che mi circondano, proprio questo amore. Ecco, la voglio interrompere, non in maniera così brutale. Corrado Augias, I segreti d'Italia, edizione Rizzoli, leggetelo, perché è un libro che parla del profondo di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie. Una parola sola in conclusione: non potevamo, non so se è stato fatto apposta o no, non potevamo chiudere meglio che con la voce bella, pulita, dai, che condivido, della signora Letizia. Grazie, Corrado.